Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Come osserva lo stesso Limonov, una cronaca della vita sovietica negli anni 60 sarebbe incompleta senza il KGB. Il lettore occidentale già rabbrividisce, immagina gulag e internamenti in ospedali psichiatrici. In realtà, anche se Eduard è passato fin troppe volte per le stazioni di polizia, a Kharkov i suoi rapporti con gli organi sono stati semplicemente farseschi. Ecco la storia. Un pittore del suo giro, Bachchanian, detto Bach, ha conosciuto un turista francese che gli ha regalato un giubbotto di jeans e qualche vecchio numero di Paris Match. In quegli anni, dopo la caduta di Khrushchev e la restaurazione della troika Brezhnev-Kosygin-Gromyko, ciò costituisce reato, è un reato piuttosto grave. È proibito ogni contatto con gli stranieri, sospettati di diffondere pericolosi virus occidentali sotto forma di libri, dischi e persino abiti, e di far uscire dal paese testi di dissidenti. Appena lasciato l'albergo del francese, con addosso il giubbotto e in mano una sporta di plastica contenente i numeri di Paris Match, Bach è assalito dalla paura di essere seguito. Si precipita a casa di Anna Eduard, cui confida i propri timori. I tre hanno appena il tempo di ficcare il giubbotto e le riviste in un baule su cui Anna si siede con tutta la sua callipigia imponenza. Il cechista sta già bussando alla porta. Va ad aprire Eduard, che con una sola occhiata gli prende le misure. Capelli biondi tendenti a grigio, l'aria di un ex atleta che si è lasciato andare e non è difficile indovinare che ha una moglie della sua stessa età e due o tre figli brutti e senza futuro. Insomma, un collega o un fratello del povero Beniamin. Alla vista dei libri e dei quadri, l'uomo sembra intimidito per aver fatto irruzione in una casa di artisti. Forse pensa che la loro vita sia più interessante della sua e di conseguenza potrebbe incattivirsi, ma non è uno cattivo. Esegue la perquisizione, perché quello è il suo lavoro, senza troppo zelo. I tre credono che se ne andrà a mani vuote. L'uomo è ormai quasi sul pianerottolo, sta indugiando con lo sguardo quando gli viene in mente che per tutta la durata dell'ispezione Anna non si è mossa dal baule su cui è seduta. Le chiede di aprirlo. Prova di forza. Anna all'inizio rifiuta con veemenza, come se si trovasse davanti alla Gestapo intenzionata a estorcerle i nomi della sua banda partigiana, ma alla fine cede. Così il malloppo viene scoperto e confiscato. Anna e Eduard se la caveranno con una reprimenda, mentre Bach verrà processato da un collettivo di compagni della fabbrica Pistone. Improvvisatisi critici d'arte, i compagni opinano che anche un asino con un pennello attaccato alla coda sarebbe stato capace di dipingere i quadri di Bach. E per richiamarlo a un'arte più figurativa, lo spediscono per un mese a scavare buche in un cantiere, dopodiché Bach ritornerà tranquillamente alle sue superate astrazioni da provinciale. Conclusione di Eduard. Se le autorità di Kharkov fossero state un po' più carogne, l'onesto pittore Bachchanian sarebbe potuto diventare celebre in tutto il mondo, come lo è appena diventato l'onesto poeta Brodsky, che ha avuto soltanto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto e vincere così un terno al lotto. Soffermiamoci un momento su questa osservazione e su quanto essa ci rivela del nostro eroe. Presentiamo l'uomo che Eduard considererà per gran parte della vita il proprio capitano Lievitin, Iosif Brodsky, giovane prodigio di Leningrado, consacrato all'inizio degli anni 60 da Anna Akhmatova in persona. Anna Akhmatova non è mica Motrich. Dopo la scomparsa di Mandelstam e della Tsvetaeva, è ritenuta da tutti gli intenditori il più grande poeta russo vivente. C'è anche Pasternak. Ma Pasternak è ricco, carico di riconoscimenti, sfrontatamente felice, e il suo tardo conflitto con il potere si manterrà sempre entro limiti civili. L'Akhmatova, invece, colpita nel 1946 dal divieto di pubblicazione, vive di tè e pane secco, in stanze di appartamenti condivisi, cosa che al genio aggiunge l'aureola della resistenza e del martirio. Dice l'Akhmatova: «Mi sono sempre trovata là dove aveva la sfortuna di essere il mio popolo». Nel suo malanimo, Eduard si compiace di descrivere Brodsky come un eterno primo della classe, sempre attaccato alle gonnelle della sua protettrice. Ma la verità è che, in quanto ad avventure, La giovinezza di Brodsky non ha nulla da invidiare a quella di Eduard. Anche lui figlio di un piccolo ufficiale, Brodsky ha abbandonato presto la scuola e ha lavorato come fresatore, sezionatore di cadaveri all'obitorio e assistente in spedizioni geologiche in Yakutia. Con un malvivente amico suo è andato a Samarcanda, da dove ha cercato di raggiungere l'Afghanistan dirottando un aereo. Internato in un ospedale psichiatrico, è stato sottoposto a iniezioni di zolfo terribilmente dolorose e a una simpatica terapia chiamata Ukrutka, che consiste nel tuffare il paziente avvolto in un lenzuolo dentro una vasca di acqua gelida e lasciarlo poi ad asciugare dentro lo stesso lenzuolo. La sua vita ha subito una svolta a 23 anni, quando è stato arrestato con l'accusa di parassitismo sociale. Il processo contro questo pigmeo ebreo con pantaloni di velluto a coste, questo poeta da strapazzo nei cui versi l'incomprensibilità fa a gara con la pornografia, per citare il capo di imputazione, sarebbe dovuto passare inosservato. Ma una giornalista presente all'udienza ha stenografato le sedute. I verbali sono circolati in forma di samizdat e un'intera generazione è rimasta sbalordita da questo dialogo. «Chi le ha dato il diritto di diventare poeta?» chiede il giudice. Brodsky, pensieroso. «Chi mi ha dato quello di diventare uomo? Forse Dio?» E Anna Akhmatova commenta: «Che bella biografia stanno costruendo al nostro rosso malpelo. Sembra che sia lui a guidare il gioco». Condannato a 5 anni di confino, Brodsky è finito a spalare letame in un paesino del Grande Nord, non lontano da Arkhangelsk, terra gelida, paesaggi resi astratti dal freddo, dallo spazio e dal biancore, amicizia ruvida dei paesani. Questa esperienza gli ha ispirato alcune poesie che, giunte a Leningrado per vie tortuose, sono diventate oggetto di culto in tutti i circoli più o meno dissidenti dell'Unione Sovietica. Alla libreria 41 non si fa altro che parlare di Brodsky. E la cosa dà i nervi al competitivo Eduard, che già ha mal digerito l'ondata di entusiasmo sollevata nel paese 2 anni prima dalla pubblicazione di Una giornata di Ivan Denisovich. Ma questo ci poteva anche stare. Salgenitsin potrebbe essere suo padre. Brodsky, invece, ha soltanto 3 anni più di lui. Dovrebbero combattere nella stessa categoria, ma ce ne corre. Molto presto, il giovane ribelle Limonov ha cominciato a considerare la dissidenza nata negli anni 60 con beffarda ostilità e a mettere apertamente nello stesso mazzo Salgenitsyn e Brezhnev, Brodsky e Kosygin, tutte persone importanti, ufficialmente riconosciute, istituzionali, che pontificano ciascuna dal proprio lato della barricata. Le opere complete del primo segretario sul materialismo dialettico, bilanciate dai mattoni dell'uomo con la barba che si atteggia profeta, non sono cose che fanno per noi. Noi delinquenti, smaliziati, piccoli lumpen astuti, che sanno quanto sia esagerato dire che la società sovietica è totalitaria. La società sovietica è soprattutto incasinata e basta essere un po' furbi per approfittare di questo casino e divertirsi. Secondo gli storici più seri, Robert Conquest, Alec Nov, mia madre, 20 milioni di russi sono stati uccisi dai tedeschi nei 4 anni di guerra e 20 milioni dal governo nei 25 anni del regno di Stalin. Si tratta di numeri approssimativi, i periodi si sovrappongono un po', ma quel che conta ai fini della storia che sto raccontando è che l'infanzia e l'adolescenza di Eduard sono state cullate dal primo dato e che in seguito egli ha fatto il possibile per ignorare il secondo perché, malgrado il suo gusto per la ribellione e il suo disprezzo per il destino mediocre dei genitori, è rimasto un loro figlio. Il figlio di un ufficiale della CK, cresciuto in una famiglia risparmiata dai più grandi sconvolgimenti del paese, senza mai sperimentare l'arbitrio assoluto e quindi convinto che se si arrestano delle persone deve pur esserci un motivo. Un piccolo pioniere orgoglioso del suo paese, della sua vittoria contro i crucchi, dell'impero che si estende su 2 continenti e 11 fusi orari e della FIFA maledetta che incute quelle pappe molle di occidentali. Eduard se ne frega di tutto, ma non di questo. Quando sente parlare di Gulag, pensa sinceramente che si esageri e che gli intellettuali che li denunciano facciano tante storie per qualcosa che i delinquenti prendono con più filosofia. E poi, i posti sulla nave della dissidenza sono ormai tutti occupati. Ci sono già le star, se sale a bordo anche lui non sarà altro che un figurante, e questo no, mai. Così preferisce sghignazzare E dire che quelli come Brodsky se la tirano tanto, che il suo confino ad Arkhangelsk è solo uno scherzo, 5 anni poi ridotti a 3, di villeggiatura in campagna. E in più, anche se Eduardo ancora non lo sa, il premio Nobel in arrivo. Bel colpo, capitano Lievitin. Sono già 3 anni che Eduard fa la vita del bohemien a Kharkov e gli sembra di non avere più niente da scoprire, di essere più avanti di tutti quelli che lo mettevano in soggezione e di aver demolito l'uno dopo l'altro tutti i suoi idoli. Motrich, il grande poeta del gruppo, è soltanto un povero ubriacone che, a 30 anni suonati, aspetta che la madre esca di casa per invitare gli amici e li fa bere tutti dallo stesso bicchiere perché ha paura che gliene rompano qualcuno. Guyenka, il playboy, passerà la vita a guardare i 3 avventurieri senza avere mai il coraggio di diventare come loro. Gli amici di Salto, non parliamone nemmeno, Kostya marcisce in prigione, il povero Kadik in fabbrica. E quando ogni tanto lui e Eduard si ritrovano, fa pena vedere quanto Kadik sia amareggiato. Kadik sognava di diventare un artista e di vivere in centro. Eduard è un artista e vive in centro. Così Kadik gli dà del parassita. Dice che è molto bello pavoneggiarsi al bar dello zoo in completo color cioccolato con un filo d'oro, ma ci vuole anche qualcuno che abiti i bulloni dei motori. Qualcuno, sì, ma non io, risponde Eduard, che spinge la sua crudeltà fino a citare una frase di un autore che gli ha fatto scoprire Kadik e che entrambi hanno adorato. Ti ricordi cosa diceva Knut Hamsun? Gli operai bisognerebbe farli fuori tutti. Era un fascista il tuo Hamsun, mormora Kadik fra i denti. Eduard fa spallucce. E con ciò? Eduard ritiene che, si tratti di malviventi o artisti, quanti hanno contribuito a trasformare il fonditore Savienka nel poeta Limonov non abbiano più niente da insegnargli. Li considera tutti dei falliti e glielo rinfaccia apertamente. In uno dei libri sulla propria giovinezza, scritto anni dopo a Parigi, riferisce con la consueta onestà la conversazione con un'amica che, con tono gentile e un po' triste, gli dice che quella maniera di dividere il mondo in falliti e non falliti è un giochetto da immaturi e soprattutto un sistema per essere sempre infelici. Eddie, non sei capace di immaginare che si possa vivere una vita piena anche senza il successo e la celebrità? Che il criterio per valutare se uno è o no un uomo affermato sia per esempio l'amore, una famiglia, una vita tranquilla e armoniosa? No, Eddie non ne è capace e si vanta di non esserlo. L'unica vita degna di lui è quella dell'eroe. Lui vuole che il mondo intero lo ammiri e pensa che ogni altro criterio, una vita familiare tranquilla e armoniosa, i piaceri semplici, il giardino coltivato a riparo dagli sguardi, siano autogiustificazioni da falliti. La minestra che Lydia serve al suo povero Kadik per tenerlo a cuccia. Povero Eddie, sospira l'amica. Poveri voi, pensa Eddie. E certo povero me se divento come voi. A Mosca, sospiravano dal fondo della provincia russa le 3 sorelle di Chekhov. E un secolo dopo sarà lui a partire. Anche Anna è attratta dall'avventura, pur temendo che laggiù la sua seducente piccola canaglia trovi di meglio e le sfugga di mano. Una sera arriva al 41 un amico dell'ex marito di Anna, un pittore nato a Kharkov ma trapiantato da tempo nella capitale. Brusilovsky è elegante. Conosce gente famosa che chiama per nome, anzi per diminutivo. Secondo la divertente descrizione di Limonov, è il tipo che in provincia fa credere di essere famoso a Mosca e a Mosca di essere famoso in provincia. Eduardo è intimidito, a disagio. Tanto più che Anna insiste perché legga le sue poesie al visitatore, il quale ha la condiscendenza di trovarle buone. «Ma perché andarvene?» domanda. «Si sta bene a Kharkov». Si può far maturare la propria opera lontano dal tourbillon superficiale e artificioso della capitale. Guai a chi si fa distrarre dagli specchietti per le allodole. La vita vera, la vita calma e lenta. Di questo ha bisogno l'artista. Sapete una cosa, vi invidio. Tutte chiacchiere, stronzo, pensa Eduard. Se Kharkov ti piaceva tanto, perché te la sei squagliata? Questo, pensa Eduard. Ma ascolta con punto, da bravo bambino. Parte che ha imparato a recitare molto bene. Il moscovita che, dopo aver esaltato la vita così genuina della provincia, attacca con i suoi amici del gruppo Smog. Come? Non conoscete gli smoghisti? Non conoscete lo Smog, la società dei giovani geni? Non conoscete Gubanov? Ha solo 20 anni, ma a Mosca la gente che conta pende dalle sue labbra. E Brusilovsky comincia a recitare ad occhi chiusi alcuni versi del giovane genio. Non sono io che mi perdo negli occhi del Cremlino, ma il Cremlino che si perde nei miei. Gubanov, uno stronzo di 20 anni, schiuma di rabbia Eduard. Io fra poco ne avrò 25 e sono già stato superato da Brodsky. Nessuno al mondo sa che esisto. Non può continuare così ancora per molto. Mosca, 1967-1974. In quegli anni, mia madre ha pubblicato il suo primo libro, Il marxismo e l'Asia. Mi faceva una grande impressione che mia madre avesse scritto un libro. Ho provato a leggerlo, ma mi sono arreso dopo le prime 5 parole che erano: tutti sanno che il marxismo, quell'incipit era diventato argomento di scherzo tra me e le mie sorelle. Ma no, ripetevamo, non tutti sanno che il marxismo, noi non lo sappiamo. Avresti pure potuto pensare a noi. Il libro affrontava la questione, allora poco indagata e alla quale mia madre aveva dedicato la sua giovane carriera di ricercatrice, di come le popolazioni musulmane dell'Asia centrale si siano adattate all'ideologia e al potere sovietici. Avevo 6 mesi quando mia madre partì per un lungo viaggio di studio in Uzbekistan, al seguito di una spedizione di scienziati che svolgeva ricerche sull'epizozia degli ovini. Da Bukhara, Tashkent e Samarcanda aveva portato fotografie di moschee, cupole, mendicanti ascetici alteri con la testa fasciata da turbanti e gli occhi nerissimi. Quelle foto erano immerse in un'ammagliante luce color seppia che da piccolo mi attraeva e mi faceva un po' paura. Avrei voluto accompagnare mia madre in quel paese misterioso che lei chiamava l'URSS. Non mi piaceva che ci andasse, perché le nostre separazioni mi facevano soffrire e poche volte sono stato così felice come il giorno in cui, invitata a un convegno di storici a Mosca, ha deciso che ero abbastanza grande per andare con lei. Di quel viaggio incantato ricordo ogni particolare. Mia madre mi portava con sé dappertutto. Al pranzo con il consigliere culturale francese ero seduto a tavola accanto a lei. Ascoltavo buono buono i discorsi degli adulti ed ero così felice di stare in quel posto che più di 40 anni dopo sono in grado di ripetere come un mantra i nomi degli ospiti. C'era un professore che si chiamava Gilbert Dagron, una certa Nena, non Nina né Lena, Nena, moglie del regista Jacques Baratier, che aveva girato Confetti al pepe con Guy Bedeau, e un ragazzo che pur essendo russo aveva un nome francese, Vadim Delaunay. Era giovanissimo, bellissimo, gentilissimo, una specie di ideale fratello maggiore che mi ha subito preso in simpatia. Se mi fosse piaciuto giocare, sono sicuro che avrebbe giocato con me. Siccome mi piaceva leggere, si è informato delle mie letture. Come me, era imbattibile su Alexandre Dumas. Questo accadeva nel 1968 e io avevo 10 anni. Quanto a Eduard e Anna, si erano da poco stabiliti a Mosca. In Unione Sovietica trasferirsi di propria iniziativa in un'altra città non era una cosa semplice. Dopo la rivoluzione di ottobre e ancora oggi, bisogna essere forniti di un'autorizzazione di residenza, la prapiska, difficile da ottenere. Loro non l'avevano ottenuta e pertanto erano condannati a una vita da clandestini, sempre a rischio di un controllo sulla metropolitana. Abitavano in stanzette di periferia e traslocavano spesso per non richiamare l'attenzione. Le loro proprietà si riducevano a una valigia con un po' di vestiti, una macchina per scrivere le poesie e una macchina per cucire i pantaloni. Con un po' di tela indiana acquistata a buon mercato, Eduard e Anna avevano iniziato a fabbricare anche borsette a 2 manici, imitazioni di un modello visto su uno dei vecchi numeri di Parimec di Bach. Costo di produzione 1 rublo, prezzo di vendita 3 rubli. Il loro primo inverno a Mosca era stato il più rigido del decennio. Anche mettendosi l'uno sopra l'altro tutti i vestiti che possedevano, avevano sempre freddo e anche sempre fame. Andavano a mangiare in una mensa dove recuperavano dai piatti sporchi residui di purè e pelle di salame. Nei primi tempi il pittore Brusilovsky, il concittadino che aveva fatto fortuna a Mosca, era stato il loro protettore e il centro della loro vita sociale. Per questi quasi poveri, il suo grande atelier con pelli di animali stesi sui divani, carte geografiche trasformate in abat-jour e alcolici di importazione, era un'oasi di lusso e di calore, e bastava essere disposti ad ammirarne il successo perché Brusilovsky si rivelasse un brav'uomo. Era stato lui a consigliare a Eduard di muovere alla conquista di Mosca partendo dal seminario di poesia di Arseni Tarkovsky, allo stesso modo in cui, in quegli stessi anni, un Brusilovsky francese avrebbe mandato un giovane provinciale ambizioso ad ascoltare Gilles Deleuze a Vincennes. «Bada, però», lo aveva avvisato, «che c'è un mare di gente. Mica ci si entra così, bisogna far parte della cerchia dei discepoli. Chiedi di Rita». Un lunedì sera, Eduard infila dunque il quaderno di poesie nella tasca interna del cappotto troppo corto e troppo leggero, in pelliccia di pesce, dicono i russi, e prende il metrò fino alla sede dell'Unione degli Scrittori, un'ex residenza nobiliare che Tolstoj aveva preso a modello per quella della famiglia Rostov in Guerra e Pace. È in anticipo di un'ora, ma c'è già molta gente che come lui batte i piedi per riscaldarsi. Il termometro segna meno 20. Eduard chiede di Rita, gli rispondono che non si è ancora vista, che arriverà, ma Rita non arriva. Una volga nera accosta silenziosamente al marciapiede coperto di neve. Ne scende il maestro, i lisci capelli bianchi pettinati all'indietro, imbacuccato in un'elegante pelliccia, fra le labbra una pipa inglese da cui escono volute di tabacco aromatico. Zoppica leggermente e anche questo in lui diventa un tratto di distinzione. È in compagnia di un'altera bellezza che potrebbe essere sua figlia. Le porte si aprono davanti a loro, si richiudono dietro di loro, ma insieme a loro entra solo un esiguo trappello di eletti. Eduard afferma di essere rimasto fuori, con la plebaglia, per 6 lunedì consecutivi. Mi sembrano tanti, ma Eduard non ha l'abitudine di esagerare, e quindi gli credo. Il 7° lunedì compare Rita, e Eduard accede al Sancta Sanctorum. Oggigiorno Arseni Tarkovsky è molto meno famoso del figlio Andrei, che allora era appena agli inizi della sua carriera di genio della cinematografia mondiale. Per quanto ne so, Eduard, la cui opinione su Nikita Mikhailkov non tarderemo a scoprire, di Tarkovsky figlio non ha mai parlato. E mi pare strano perché non fatico a immaginare le cattiverie che il nostro ragazzaccio avrebbe potuto scrivere su questo mostro sacro della cultura, che io come tutti ammiro. La sua seriosità impermeabile a ogni umorismo, la sua spiritualità austera, le sue inquadrature contemplative immancabilmente accompagnate da cantate di Bach. Il padre comunque, all'epoca poeta molto stimato ed ex amante di Marina Tsvetaeva, fin dal primo istante non gli piace, non perché lo trovi mediocre, tutt'altro, ma perché l'unico ruolo possibile accanto a lui è evidentemente quello del discepolo devoto. E questo a Eduard, anche se giovane, grazie tante, ma non interessa. A ogni incontro un partecipante legge le proprie poesie. Quella settimana tocca una certa Mashenka che indossa, cito Eduard, una palandrana color merda e ha la tipica espressione appassionata e malinconica di tutte le poetesse che frequentano le case della cultura in Unione Sovietica. I suoi versi sono in linea con l'aspetto fisico, scopiazzati da Pasternak, delicatamente lirici, assolutamente prevedibili. Se fosse al posto di Tarkovsky, Eduard le consiglierebbe di buttarsi sotto un treno. Ma il maestro si accontenta di metterla in guardia, con fare paternalistico, dalle rime troppo perfette e di raccontare in merito un aneddoto, il cui protagonista è il suo defunto amico Osip Emiljevic. Osip Emiljevic è Mandelstam. E di aneddoti su Osip Emiljevic e Marina Ivanovna, Svetaeva, ce ne saranno ogni settimana. Eduard ribolle di delusione e rabbia. Vorrebbe leggere i propri versi e lasciare tutti a bocca aperta. Il lunedì successivo è uguale al precedente, e così pure quello dopo. Eduard si rende conto di non essere l'unico frustrato dalla eterna attesa del proprio turno. Così, dopo un seminario, e benché un paio di birre al prezzo di 42 copechi significhino, considerate le sue finanze, saltare i pasti il giorno dopo, va a bere qualcosa con gli altri e cerca di fomentare una rivolta, come ha visto fare a uno dei suoi eroi, il marinaio della corazzata Potëmkin, che d'improvviso esclama: «Ehi ragazzi, che storia è questa? Ci danno da mangiare carne avariata». Sulle prime i poeti non prendono sul serio quel ragazzo di provincia con il naso all'insù e la voce acuta, ma Edouard estrae il suo quaderno, comincia a leggere e presto tutto il gruppo lo ascolta in un silenzio sempre più attonito. Allo stesso modo, narra la leggenda, i parnassiani ascoltarono un adolescente arrogante, maleducato, con grosse mani arrossate, che veniva dalle Ardenne e si chiamava Arthur Rimbaud. Fra i testimoni della scena c'era Vadim Delaunay. Mi sono imbattuto nel suo nome leggendo Il libro dei morti, un libro in cui Limonov ha riunito alcuni ritratti di persone famose o anonime che ha conosciuto nel corso della sua vita e che hanno in comune il fatto di essere morte. La descrizione di Vadim Delaunay data da Limonov corrisponde ai miei ricordi. Giovanissimo, 20 anni appena, bellissimo, affabilissimo. Tutti, dice Limonov, gli volevano bene. Vadim era un discendente del marchese Delaunay, comandante della Guardia della Bastiglia nel 1789. I suoi antenati erano emigrati in Russia per fuggire la rivoluzione e doveva, probabilmente alle sue origini, la possibilità di avere rapporti con un diplomatico straniero, cosa del tutto eccezionale nell'era bresneviana. Vadim Delaunay scriveva poesie. Era il beniamino degli smoghisti, quel movimento di avanguardia con cui a Kharkov Brusilovsky aveva martellato fino allo sfinimento Edouard e Anna. Ho controllato le date. Nulla mi vieta di immaginare che proprio quel giorno, dopo aver trascorso l'intero pranzo dal consigliere culturale a parlare dei tre moschettieri con un ragazzino francese, Vadim Delaunay sia andato di volata al seminario di Arseni Tarkovsky e abbia assistito al debutto del poeta Limonov nell'underground moscovita. C'era la letteratura ufficiale, gli ingegneri dell'anima, come una volta Stalin aveva definito gli scrittori, quelli che rimanevano ligi al realismo socialista, la corte dei Fadyeyev, dei Sholakov, dei Simonov, con appartamento, dacia, viaggi all'estero, ingresso ai negozi riservati ai gerarchi del partito, opere complete rilegate, tirate in milioni di copie e insignite del premio Lenin. Ma questi privilegiati non avevano la botte piena e la moglie ubriaca. Quanto guadagnavano in comfort e sicurezza, lo perdevano in autostima. Ai tempi eroici dei costruttori del socialismo, potevano ancora credere a ciò che scrivevano, essere orgogliosi di ciò che erano. Ma, al tempo di Brezhnev, dello stalinismo morbido e della nomenclatura, non potevano più farsi illusioni. Sapevano bene di essere al servizio di un regime corrotto e di aver venduto l'anima, e sapevano che gli altri lo sapevano. Salgenitsin, il loro comune rimorso, lo ha scritto. Uno degli aspetti più deleteri del sistema sovietico era che a meno di non diventare martiri non si poteva essere onesti, non si poteva avere una buona opinione di se stessi. Gli intellettuali di regime, se non erano completamente abbrutiti o del tutto cinici, si vergognavano di quel che facevano, si vergognavano di quel che erano. Si vergognavano di scrivere sulla Pravda lunghi articoli di denuncia contro Pasternak nel 1957, Brodsky nel 1964, Signaschi e Daniel nel 1966, Solzhenitsyn nel 1969, mentre in cuor loro li invidiavano. Sapevano che erano quelli gli autentici eroi della loro epoca, i grandi scrittori russi, a cui il popolo chiedeva, come un tempo a Tolstoi, che cos'è bene, che cos'è male, come dobbiamo vivere. I più infingardi dicevano sospirando che se fosse dipeso soltanto da loro avrebbero seguito quegli esempi sublimi. Ma avevano una famiglia, figli che avevano intrapreso lunghi studi, tutte le validissime ragioni che ognuno di noi ha per diventare un collaboratore anziché un dissidente. Molti si rifugiavano nell'alcol, alcuni, come Fadyeyev, si suicidavano. I più furbi, che erano anche i più giovani, imparavano a giocare su due tavoli, pratica ormai possibile perché al potere facevano comodo questi semidissidenti moderati ed esportabili che Aragon si era specializzato nell'accogliere da noi a braccia aperte. Yevgeny Yevtushenko, che incontreremo più avanti, si prestava ottimamente alla bisogna. Ma per restituire il colore dell'epoca, va detto che c'era anche la massa di quanti non erano né eroi, né corrotti, né furbetti. Erano tutti quelli che appartenevano all'underground, che avevano due certezze assolute: che i libri pubblicati, i quadri esposti, i drammi rappresentati fossero necessariamente compromessi con il potere e mediocri, che un artista autentico fosse necessariamente un fallito, non per colpa sua, ma di un'epoca in cui essere un fallito era un marchio di nobiltà. Lo era per un pittore guadagnarsi da vivere come portiere di notte. Lo era per un poeta spalare la neve davanti a una casa editrice a cui mai e poi mai avrebbe dato in lettura le proprie poesie. E toccava al direttore sentirsi a disagio quando scendeva dalla sua Volga e lo vedeva nel cortile con la pala in mano. Facevano una vita di merda, ma non avevano tradito. Ci si scaldava tra falliti, nelle cucine dove si discuteva per nottate intere, facendo circolare samizdat e bevendo samagonka, la vodka fatta in casa, nella vasca da bagno, con zucchero e alcol denaturato. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.